Incontri di Gianfranco Fabi. Con queste note un po' sontuose dell'Inno alla Gioia di Beethoven iniziamo il nostro incontro di oggi con il professor Stefano Zamagni. Buongiorno professor Zamagni. Buongiorno. Stefano Zamagni, professore ordinario di economia politica all'Università di Bologna, la John Hopkins University di Bologna, è presidente dell'Agenzia per le ONLUS, una lunga carriera universitaria, un monte di libri scritti e molti interventi in convegni, in tavole rotonde, in interviste, cui lo ringraziamo anche questa mattina. Qual è la logica di fondo che porta avanti in questa sua attività, professor Zamagni? Ma da anni perseguo uno obiettivo, si vuole dire strategico, quello di restituire alla disciplina che professo, cioè l'economia politica, il suo volto autentico, quello cioè di essere una disciplina sociale, una scienza, come si suol dire, al servizio dell'uomo. Perché così è sempre stato, sin dall'inizio, ma per tutta una serie di circostanze negli ultimi decenni l'economia si è autonomizzata a tal punto dal resto della società da diventare per certi aspetti inservibile e per altri aspetti pericolosa. La recente crisi tuttora in atto ne è un esempio clamoroso. La crisi è dovuta a tanti fattori, uno di questi è anche un certo disimpegno dell'elaborazione teorico-scientifica dell'economia nei confronti dei problemi della quotidianità degli uomini che vivono in società. Il mio tentativo è stato ed è quello di restituire, come lanciando quel progetto di ricerca o quel filone di ricerca che va sotto il nome di economia civile. Ecco, lei è presidente di un consiglio pontificio? No, non sono presidente, perché i presidenti sono i soli cardinali e io sono un umilissimo laico, però sono membro del Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace, del Pontificio Consiglio dei Migranti e dei Rifugiati e del Pontificio Consiglio della Famiglia. Ho fatto questa domanda perché appunto nella qualità di partecipante a queste commissioni, a questi consigli, lei è stato anche uno dei consulenti dell'ultima enciclica del Papa, la Caritas in Veritate. Sì, ecco, è più giusto usare un'altra parola, non consulente ma consultore. E lo dico un po' sorridendo, perché il consulente è una persona che presta servizi dietro remunerazione, il consultore invece no. In secondo luogo, il consultore è una figura che svolge un proprio servizio sulla base di un rapporto di fiducia che lo lega alla persona che gli chiede. In questo caso è vero che ho fatto parte di un gruppo di lavoro, come ormai tutti sanno, di 11 persone, insediato all'interno del Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace, e delle 11 persone io sono stato l'unico laico. Ecco, in questo lavoro, questo processo di elaborazione di questa enciclica, è stato un lavoro abbastanza lungo, anche perché avete avuto un incidente di percorso, la crisi globale, è iniziato prima della crisi e avete dovuto tener conto della crisi nel proporre il testo definitivo. Beh, è vero, però non è un incidente, ma anzi direi un'opportunità che nessuno si augurava che si verificasse. Perché? Perché è chiaro che l'uscita dell'enciclica il 29 giugno del 2009, nel pieno della crisi, ha dato a questo documento, che secondo me ha dell'eccezionale, un risalto che forse difficilmente avrebbe avuto in condizioni di normalità. Quindi, più che ritardo, la decisione del Papa di far uscire l'enciclica in quella circostanza è dovuta anche alla capacità di penetrazione che questo messaggio poteva avere in quel momento storico. In fondo l'enciclica è stata qualcosa che ha dato la dimostrazione del fatto che la crisi era prevedibile sotto certi aspetti e era comprensibile proprio secondo le categorie che poi l'enciclica ha proposto, che poi proponeva già prima della crisi. Esatto, è proprio così, è proprio così. Direi che Questo è il motivo per cui questa enciclica sta avendo un successo che non si era mai verificato con le encicliche precedenti. Sono stati contati ormai a tutt'oggi, in meno di un anno, 6.500. L'ha contato il padre Salvini in un articolo pubblicato su qualche tempo fa su Civiltà Cattolica. 6.500 tra incontri, conferenze, simposi, eccetera. In Italia, nei primi 5 mesi, la Caritas Veritate ha occupato i primi posti nella vendita dei libri di saggistica. Mai qualcosa del genere si era verificato in passato. Perché? Perché questa enciclica parla all'uomo che vive nell'oggi e dà un'interpretazione della crisi in atto che, pur non sottovalutando le cause prossime, che tutti sanno sono sulla bocca di tutti, fissa l'attenzione sulle cause remote. Ecco, le cause remote che si cerca e vanno cercate soprattutto sul fatto che l'uomo dovrebbe ritrovare una capacità di essere protagonista dell'economia, mentre ha affidato l'economia più alla matematica, ai computer, alla finanza, cioè al fatto di staccare la finanza dall'economia reale. È stato questo. Questa è sicuramente una. Poi ce n'è un'altra collegata ed è la sottovalutazione della centralità del lavoro. Negli ultimi decenni è passata questa linea, che la ricchezza è prodotta non dal lavoro ma dalla speculazione. E l'idea, che è diventata di dominio comune, è: vuoi arricchirti, non stare a perdere tempo col lavoro. Cerca di dedicarti alla finanza o incarica qualcuno che si dedichi per te e diventerai ricco in poco tempo. Il Papa nell'enciclica dice: quando si toglie al lavoro la sua funzione primaria, è ovvio che prima o poi i nodi arrivano al pettine. L'altra, è direi causa remota, è di natura, come dire, propriamente, starei per dire, antropologica, e cioè questa idea o questa mentalità della avidità. Il film Wall Street, che vedremo sugli schermi in Italia fra qualche mese, la dice lunga. Oliver Stone nel 1987 produce Wall Street Number One. E Jacko, il protagonista, esce dicendo: greed is good, greed is fine. Greed vuol dire avidità. La avidità è buona, la avidità è bella. Adesso, nella Wall Street Number 2, lo stesso attore che interpreta Jacko dirà, come abbiamo letto nelle recensioni, greed is bad, greed is dangerous, cioè l'avidità è male, l'avidità è pericolosa. Ora, se un regista nell'arco di, appunto, 1987-2010 è arrivato a capire questo, vuol dire che forse il Papa ha la vista giusta. Beh, indubbiamente, diciamo, la società ha dovuto sbattere il naso contro una realtà finanziaria che pensava di costruire i soldi con i soldi e poi invece ha scoperto che con i soldi si possono costruire anche tanti e tanti problemi. Incontri. Con queste sontuose note dell'Inno della Gioia riprendiamo il nostro incontro con il professor Stefano Zamagni. Abbiamo chiuso la prima parte, parlando di avidità, della crisi finanziaria, dell'enciclica del Papa che ha puntualizzato i punti di fondo dell'attualità economica e della realtà della crisi. Ecco, perché abbiamo messo l'Inno alla Gioia? Perché nell'ultima maturità, a metà di giugno, uno dei temi proposti dal Ministero dell'Università era la ricerca della felicità. E proprio tra i documenti presentati per dare una guida agli studenti su questo tema c'era un brano del libro Avarizia, la passione dell'avere, che è proprio di Stefano Zamagni. Si è un po' sorpreso di essere stato citato tra i documenti dei temi di maturità, professor Zamagni? È chiaro, la sorpresa è stata tanta per due ragioni. Primo, perché questo saggio uscito per i tipi del Mulino è vecchio solo di 10 mesi. Di solito si prendono brani da libri che sono sul mercato da anni e che in qualche modo hanno fatto tendenze. L'altro perché, e questo in entrambe positive queste sorprese, il Ministero ha ritenuto di offrire agli studenti maturandi come tema quello della felicità pubblica, e in generale non si è abituati a parlare di felicità nelle aule scolastiche, perché si tende a far passare la linea secondo cui la scuola sia un luogo tutt'altro che di gioia. Recentemente a un mio nipotino, ho già quattro nipotini, che ha frequentato la seconda elementare, gli ho ricordato che scuola deriva dal greco skolē, e skolē nell'antica Grecia era il luogo del divertimento. E quando le ho chiesto: ma Matteo, ti diverti a scuola, perché la scuola è luogo di divertimento? Lui ha guardato la sorella più grande, Alice, e le ha chiesto: ma Alice, secondo te il nonno è impazzito? Ecco, dove avete il tema della gioia, della felicità, poi anche dei percorsi controversi, proprio in questa citazione del documento del Ministero, la prima parola è: il tradimento dell'individualismo sta tutto qui, nel far credere che per essere felici basti aumentare l'utilità. Ecco, questo concetto che è un po' della società contemporanea: la felicità è uguale al possesso, è uguale all'avere, è uguale quindi un po' all'avarizia, cioè a fare delle cose improprio. Invece la svolta che lei propone, che la stessa enciclica propone, è quella di guardare anche alla gratuità, anche al fare le cose per gli altri, anche al fatto che non si può essere felici da soli, o non si può. Esatto, in effetti direi che per secoli nella cultura popolare è prevalsa l'idea secondo cui cercare l'utilità corrispondesse ad essere più felici, e così è stato, ed è stato vero. La novità di questi nostri tempi, a partire almeno da quando si è affermato quel processo di portata epocale che si chiama globalizzazione, è che per la prima volta nella storia dell'umanità noi vediamo che utilità e felicità non necessariamente convergono. Cioè dire, io posso massimizzare l'utilità e quindi massimizzare il reddito, il consumo di beni di un tipo o dell'altro, e non essere felice. Questo è il cosiddetto paradosso della felicità, che ormai è sulla bocca di tutti, anche perché è stato scoperto in America a livello statistico. E allora il senso del discorso che ho cercato, che cerco di portare avanti, è di far capire perché si può essere massimizzatori di utilità senza essere dei cercatori di felicità. Anzi, ci sono delle situazioni in cui i due principi vanno in direzione opposta. Spiegare questo alla gente, io vedo, soprattutto i giovani, apre loro gli occhi. Molti si meravigliano mi dicono: perché non me l'hanno spiegato prima? Perché mentre si può essere dei massimizzatori di utilità in perfetta solitudine, per essere felici, come ci ricordava Aristotele, bisogna essere almeno in due. Meglio se si è in tanti, ma almeno in due, perché non si può essere felici da soli. Ecco, lei è anche presidente dell'Agenzia per le Onlus, cioè l'agenzia che raggruppa, sorveglia in un certo modo tutte le attività non profit. Come stanno andando queste attività in Italia? C'è interesse? C'è possibilità di crescita? Oh sì, direi che è anch'io sono presidente da 3 anni e mezzo, ma non finisco mai di stupirmi, perché pensava che le realtà del non profit fossero limitate soltanto al volontariato, che è sempre esistito e sempre esisterà. Ma la novità di questi ultimi decenni è che accanto al volontariato abbiamo visto l'esplosione delle cooperative sociali, delle imprese sociali, delle fondazioni di impresa, corporate foundation, e soprattutto dell'associazionismo di promozione sociale. Sapere che tutti questi soggetti sono circa 6 milioni, vuol dire che ci sono 6 milioni di cittadini che in un modo o nell'altro, in una forma o nell'altra, si dedicano ad attività a fine non lucrative. Vorrà pur dire qualcosa se questo avviene, perché nessuno obbliga questi 6 milioni a fare quello che fanno. Allora vuol dire che stiamo riscoprendo il significato profondo della socialità, e cioè che abbiamo bisogno, e per essere felici, ma soprattutto per affermare la nostra identità, cioè la nostra vocazione, del rapporto con l'altro. Tu fai parte di me, io ho bisogno di rispecchiarmi nel tuo volto per scoprire chi sono io, e questo dal mio punto di vista è una infelice e importante conferma della linea di ricerca che sto portando avanti da tempo. Ecco, avrebbe un consiglio in questo senso da dare a noi giornalisti? Molto spesso si dice che il bene non fa notizia, si fa fatica a parlare delle cose che vanno bene, è molto più facile parlare delle cose che vanno male. Come si può parlare in modo da rendere accattivante anche il bene? È vero, questa è una domanda molto importante. Una tirata d'orecchie ai giornalisti e al mondo dei media non nuoce in questi casi. Prima abbiamo tirato le orecchie agli economisti, quindi ce n'è per tutti. Perché non è vero. perché il mondo della comunicazione sul sociale è afflitto da tre miti. Il primo è quello che ha detto lei, e cioè che la gente non è interessata alle cose buone o belle che si fanno. Non è vero. Il secondo è il mito di chi dice il sociale non paga, e anche questo non è vero, perché non è vero che non c'è una domanda pagante per servizi di informazione di questo tipo. Il terzo mito, che è il più insidioso, è il mito di chi dice non c'è bisogno di narrare il sociale, perché il comportamento virtuoso si fa strada da solo, emerge da solo, e invece non è vero, perché la virtù è vero che è più contagiosa del vizio, però deve essere narrata, deve essere raccontata. La funzione strategica dei media oggi è proprio quello di narrare il bello e il buono che si va facendo in questo come in quell'altro ambito, nel sociale in senso stretto, come nel culturale, nello sportivo e così via. Ecco, perché ci possono essere degli aspetti culturali, appunto, sociali, di apertura alla società, anche in quelle che sono le attività economiche tradizionali, le attività profit. Si parla molto di responsabilità sociale delle imprese, e anche questa è una strada da sottolineare. Esatto, ma si parla di corporate social responsibility, cioè responsabilità, ma si parla anche di corporate family responsibility, cioè la responsabilità familiare dell'impresa, il fatto cioè che l'impresa deve tener conto che i propri dipendenti non sono degli automi, ma sono persone inserite in un nesso contesto familiare. Si parla oggi sempre più di volontariato d'impresa. Volontariato di impresa non sono poche, in Italia sono circa il 23%, una recente indagine del Sole 24 Ore ha stimato il 23% il numero delle imprese che consentono ai propri dipendenti di svolgere attività di volontariato a favore di una causa o l'altra, pur rimanendo e pur continuando a percepire lo stipendio. È quello che va sotto il nome di volontariato di impresa. E la stessa cosa vale per tante altre esperienze. Il che vuol dire che dobbiamo uscire da una logica tipicamente hobbesiana, dal nome di Hobbes, il famoso autore inglese, famoso per aver inventato l'espressione che è sulla bocca di tutti, cioè mors tua vita mea, la tua morte è la mia vita, che non è vero, che anche nel mondo dell'impresa for profit non sono pochi coloro i quali interpretano il proprio agire come modo per far elevare la condizione umana. Ecco, in questa prospettiva c'è uno spazio anche per la sussidiarietà, cioè per l'intervento in fondo di privati, di volontari, in quella che è quella che possiamo chiamare la crisi del welfare. Il welfare sta andando verso delle condizioni sempre più difficili da sostenere. C'è una strada, una prospettiva in cui l'integrazione tra l'intervento pubblico e l'intervento privato può essere una soluzione. Esatto. Il principio di sussidiarietà, nonostante quel che a volte si sente dire, era già incluso nella nostra Carta Costituzionale. L'articolo 2 è fondamentale, nessuno però lo cita mai. L'articolo 2 è quello che dice: la Repubblica riconosce i corpi intermedi della società e affidando loro il destino di benessere della gente. Ora, è vero però che questo articolo 2 è sempre stato disatteso, perché non se n'è mai parlato, ed è questo il motivo per cui è prevalsa quell'impostazione che va sotto il nome di statalismo. Ebbene, da questa mentalità e da questa pratica statalistica ne stiamo venendo fuori proprio in questi tempi. E il principio di sussidiarietà è una riscoperta interessante di come radicato sia nella cultura del popolo italiano l'idea secondo la quale il bene comune non può essere appannaggio o un dovere solo dello Stato, dell'ente pubblico, ma anche dei soggetti della società civile che si organizzano in maniera autonoma per perseguire questo. Ebbene, collegare questo alla crisi del welfare state, il passo è breve, perché noi sappiamo che il vecchio welfare state oggi non è più proponibile. Dobbiamo andare verso forme più avanzate che possono essere però realizzate se mettiamo al lavoro la società civile, cioè i corpi intermedi della società. Stiamo avviandoci purtroppo verso la conclusione, ci sarebbero molte cose da dire. Sta preparando qualche libro, professor Zamagni? Sì. E dopo aver terminato il saggio sull'avarizia, uscirà per i tipi sempre del Mulino fra qualche mese un testo che ho scritto assieme a due più giovani colleghi, Leonardo Becchetti e Luigino Bruni, che è di microeconomia. È un libro di testo universitario perché vogliamo raccogliere la sfida che ci viene da tanti colleghi, e cioè che gli studenti si stanno stufando di una microeconomia, che è il corso base che si frequenta al primo anno, tradizionale, in cui si parla di cose che non fanno presa sulla realtà. Questa è una sfida, vedremo un po' se riusciremo a raccoglierla, però dai primi sondaggi l'attesa è molto forte, perché non possiamo al primo anno delle facoltà di economia e di scienze politiche dare agli studenti l'impressione che l'economia sia una scienza astratta, avulsa dalla realtà, e soprattutto che non dia gioia mentre la si studia. Quindi un'economia fondata sulla persona, fondata anche sull'irrazionalità e non solo su quella razionalità matematica su cui molto spesso abbiamo... Esatto. No, la razionalità è importante e avrà il suo posto, però accanto alla razionalità noi insisteremo sulla ragionevolezza. La razionalità può essere due tipi: irragionevole o ragionevole. A noi piace la razionalità ragionevole. Questo libro, che uscirà, ripeto, sarà un libro piuttosto grosso, di 500 pagine, per i tipi del mulino, raccoglie questa sfida. Vedremo, ne parleremo anche di questo. Intanto ringraziamo il professor Stefano Zamagni di essere stato con noi questa mattina, così come ringraziamo Carmelo Loricella in regia, Anita Panizza in redazione. Buona domenica a quanti ci ascoltano. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona estate.